Tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, benvenuti a questo nuovo appuntamento come ogni giorno con Flavio Suardi in redazione e Peter Bescapè in regia. Ci sono notizie interessanti legate al calciomercato, non solo la chiusura della trattativa in uscita per Maxwell al Barcellona da parte dell'Inter, ma anche quelle in entrata su cifre che verranno verificate ed eventualmente aggiornate anche nel corso di questo appuntamento, se ne avremo l'opportunità, ma che sembrano avvicinarsi a quelle che l'Inter ha appunto ricevuto dalla cessione del laterale brasiliano ex Ajax ai campioni d'Europa. Cifre appunto investite per Lucio, difensore centrale della nazionale brasiliana, che andrebbe, se supererà le visite mediche che secondo il Bayern dovrebbero arrivare nel giro di 2-3 giorni, mentre l'Inter dice aspettiamo, non tutto ancora è definito, dovrebbe andare a completare quel reparto difensivo nella posizione che José Mourinho ha richiesto più volte di consolidare per qualità di impostazione e per altre caratteristiche dei suoi uomini attualmente in organico, che evidentemente non lo soddisfano. 800 24 00 24, siamo pronti ad accogliere naturalmente le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ci sono anche altre notizie di giornata, di nottata e non solo, nottata quella dell'Estudiantes di Juan Sebastián Verón, che ha vinto la Copa Libertadores, la Champions League del Sud America, dunque lo ritroveremo contro il Barcellona nell'ennesima sfida Europa-Sud America, al prossimo mondiale per club. Battuto il Cruzeiro in Brasile a Belo Horizonte 2-1 dopo lo 0-0 dell'andata, in rimonta per gli argentini. Trionfo totale per la formazione di La Plata, allenata ora da Sabella, ex allenatore era il Ciolo Simeone. Altre notizie che riguardano il nuoto, i mondiali che sono vicini, iniziano domani, dichiarazioni interessanti e un po' provocatorie di Magnini che si carica e dice Phelps non ha il torcicollo, è solo una scusa per non disputare i 100 metri e non affrontarmi. Ne parleremo con Dario Ricci e poi eventualmente parleremo anche di Tour de France, se ne avremo occasione e modo nel corso di questo appuntamento. C'è invece la possibilità di ascoltare subito alcune delle voci di questa puntata, a partire da un tema che vi sottopongo, che può essere sicuramente interessante fonte di dibattito con voi. Sono dichiarazioni di Spalletti, più incisivo del solito rispetto a quando solitamente parla di giusti comportamenti e altre definizioni un po' troppo astratte, evidentemente però per gestire la piazza di Roma serve anche questo. Ieri però con Juan, che aveva parlato di Roma da scudetto, è stato molto molto deciso, eccolo. Ci potrebbe essere un'altra forma per porre le domande ai giocatori, o potrebbero parlare diversamente, sull'assicurarci un certo numero di partite e soprattutto fatte a un buon livello. Cominciamo a parlare così. Quante partite fai? L'80% del campionato, l'80% fatte di livello assoluto. E allora può darsi che cambi qualche cosa. Dire si vince lo scudetto, fare discorsi finali a lungo termine cambia poco. Ma io dico in generale, non mi riferivo solo a lui, dico se i calciatori ogni tanto invece di parlare di obiettivi finali, ma se i calciatori cominciano ad assicurare invece un numero di partite e soprattutto dentro questo numero di partite quelle fatte di grande livello, allora si può cominciare a parlare di traguardi. Questo era Luciano Spalletti nei confronti di Juan, che anche ai tempi del Bayer Leverkusen effettivamente ha avuto una presenza non totale nel corso della stagione e delle stagioni in cui ha giocato. Quando è in campo è un giocatore di assoluto e eccezionale rendimento, però naturalmente Spalletti ha voluto richiamarlo un po' all'ordine, nel senso che ha voluto ricordargli che prima di esaltare la pressione sulla piazza di Roma bisogna anche un po' lavorare sul campo e soprattutto non porre troppe aspettative in una realtà in cui già ci sono diversi problemi. C'è già qualcuno di voi che scrive, in particolare Lorenzo da Milano, rispetto a Maxwell. L'Inter, dopo averlo curato bene dall'infortunio, lo ha rilanciato, ora cosa fa? Lo vende con i terzini sinistri, proprio non ci prendono mai. Dopo Roberto Carlos, il vuoto. È anche vero che ora l'Inter è coperta da quella parte con Santon, che è migliorato molto già in una posizione, in una fascia che non erano quelle in cui aveva lavorato nel corso della sua carriera, della sua avventura a livello giovanile. Il confronto con Mourinho era stato molto aspro dopo il KO di Bergamo a inizio gennaio, e era stato poi evidente anche che Maxwell aveva mantenuto alcuni limiti in fase difensiva nella gara finale contro il Chievo a Verona. Da lì una serie di valutazioni evidentemente non solo tecniche ma anche economiche, perché il giocatore nella prossima stagione sarebbe andato via a parametro zero, hanno portato a questa valutazione. Il Barça è sicuramente la squadra ideale per lui, che è molto tecnico, molto abile e può lavorare bene in questo senso nel club di Guardiola. In attesa delle vostre telefonate all'800 24 00 24 sentiamo Leonardo, che è ora ufficialmente un tecnico che può sedere sulla panchina del Milan, anche perché, come ha spiegato e confermato Renzo Ulivieri, avendo disputato più fasi finali dei mondiali, non solo una, ha questo diritto e può accedere alla deroga, a differenza di Gennaro Ruotolo, che ha bisogno di una persona che lo affianchi con il patentino di prima categoria. Ecco Leonardo. Sinceramente mi sento molto più carico, mi sento molto più io dentro questo ruolo. Credo che ci vuole sempre tempo per inserirti, per capire. Io sono dentro una struttura che conosco da tanti anni, ma che comunque ci vuole un adattamento. Oggi quello che mi fa più felice è la disponibilità non solo del gruppo di lavoro, dello staff in cui io lavoro, ma principalmente dai giocatori, che c'è stata veramente una risposta immediata da parte loro, che senza questo sarebbe impossibile anche cominciare, e mi auguro che sia molto possibile avere risultati importanti. Questo era Leonardo. C'è una idea folle più che pazza che è stata rilanciata soprattutto dal manager di Adriano, più che dall'entourage e dal club rossonero, che riguarda appunto un possibile eventuale ritorno dell'attaccante a Milano sulla sponda rossonera. Era inevitabile che prima o poi sarebbe emerso questo tipo di prospettiva, soprattutto dalla parte di Adriano e da parte di chi ha interesse a riportare il suo assistito in un mercato più remunerativo, non solo per il giocatore ma anche per chi ne segue gli interessi, e non l'ha fatto molto bene nel corso degli ultimi tempi, non avendolo gestito poi come un professionista in senso totale. Questa possibilità chiaramente emerge considerando che il Milan non è al momento considerato all'altezza delle richieste dal Siviglia, che è un club che sta lavorando da anni molto bene con i giocatori che riesce a valutare e a valorizzare acquistandoli a prezzi bassi e rivendendoli a prezzi altissimi. Il caso di Dani Alves, acquistato a meno di 1 milione di euro e rivenduto a oltre 30 al Barcellona, è il più clamoroso. Pertanto i 14-15 milioni proposti come base di partenza della trattativa sono stati considerati dal club andaluso, dal suo presidente Del Nido, una cifra irrisoria per il Siviglia e per O Fabuloso, che al momento rimane un giocatore appunto del Siviglia. Vi faccio sentire anche, per chiudere questa serie di approfondimenti vocali, come è stato raccontato nella notte dalla TV argentina Fox Sport il gol che nella sostanza ha deciso la finale della Copa Libertadores a favore dell'Estudiantes di Juan Sebastián Verón, 35 anni, campione per la seconda volta nella storia. Il padre e il figlio riescono a vincere, naturalmente in epoche diverse, sul campo il più importante trofeo di club sudamericano, e lo fanno con la stessa squadra. In precedenza era accaduto al Peñarol e ora accade appunto all'Estudiantes con la Bruja e la Bruita, Juan Sebastián Verón, il gol decisivo di Mauro Boselli, raccontato naturalmente alla sudamericana. Estudiante de la Plata, Mauro Boselli de cabeza, es Mauro Bosselli, ex Boca Juniors, 2-1 per le Estudiantes, si è battuto il Cruzeiro. La notizia, al di là di questo e al di là del fatto che appunto le Estudiantes giocherà il prossimo mondiale per club e che ha vinto per la quarta volta questo trofeo, è che rispetto agli altri anni non c'è un giocatore che si impone anche come uomo mercato nelle finali. Era sempre successo di recente nel calcio sudamericano che la Libertadores portasse poi sulla ribalta europea internazionale giocatori di medio o alto livello. L'anno scorso era stato il caso di Thiago Neves dalla Fluminense all'Hamburgo, poi lui è tornato in realtà in Brasile proprio in questa fase di stagione. Però al di là di questo e di questo esempio specifico, è un dato che sta un po' emergendo in questo ultimo periodo. Non è una fase così florida di talenti, anche perché tutti quelli possibili e immaginabili sono stati recapitati in Europa all'età più giovane possibile. C'era, è vero, in campo Ramirez, che abbiamo visto contro di noi con il Brasile in Confederations Cup, che è già però del Benfica e ha giocato nel Cruzeiro. C'era anche Anduca, il portiere delle Estudiantes, che sarà al Catania. Torneremo a parlare di calcio anche grazie a voi, l'800 24 00 24, agli sms al 349 238 6666. Però ora facciamo un intermezzo legato al Tour de France con Pier Augusto Stagi in vista di questa 12ª tappa, quella odierna, che porterà a Vettel con 6 Gran Premi della Montagna. Bentornato Pier Augusto. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, che tipo di Tour de France è stato finora? Cosa dobbiamo aspettarci dopo questa serie di giornate tra riposo e doppiette di Cavendish sostanzialmente interlocutorie, ravvivate un po' dalla questione degli auricolari? Qual è lo stato dell'arte in questo momento? Lo stato dell'arte è questo qua, che se ci mettiamo a parlare da 2-3 giorni sugli auricolari vuol dire che c'è ben poco da parlare. E infatti è un tour che era partito molto bene. Devo dire che fino alla quarta tappa, la cronosquadre, era stato un tour estremamente interessante, anzi anche successivamente per quel colpo di vento, il famoso ventaglio che aveva così portato sugli allori, sugli scudi, Lance Armstrong, che era stato estremamente scaltro e attento insieme a Fabian Cancellara, che al momento, in quel momento era maglia gialla. Poi in realtà il tour si è seduto. Per noi italiani sta andando discretamente bene, perché perlomeno abbiamo la consolazione di avere Rinaldo Nocentini in maglia gialla. Questa sera, se riuscirà a arrivare a Vittelli in maglia gialla, sarà la sua sesta maglia di leader e eguaglierà corridori del calibro di Zigliolli, di Cipollini e anche dello stesso Marco Pantani, che nelle loro carriere hanno vestito 6 maglie alla Tour de France. Quindi per Nocentini un buon obiettivo. Quello peraltro che abbiamo appreso, insomma, è stato confermato anche da Bettini in questi giorni, che la sua carriera, è vero, sta affrontando ora il momento più alto, però ci sono state anche delle fasi di formazione che avevano dato a vari livelli l'idea che lui potesse competere poi su buone prospettive anche da professionista, no? Lui è passato con un pedigree di assoluto valore ed era forse uno dei giovani più attesi quando passò professionista alla corazzata Mapei, dove appunto c'era Ballerino, dove c'era Jon Musso, Franco, dove c'era Taffi, dove c'era Michele Bardo, c'erano tantissimi campioni e anche una bellissima nidiata di giovani, e tra questi anche Rinaldo Nocentini, che era considerato a ragione uno degli elementi più interessanti. Il problema è che si è un po' perso, si è adagiato, forse ha fatto fatica il passaggio tra il dilettantismo e il professionismo. È un passaggio molto delicato, brusco e duro. Bisogna avere una buona testa oltre che avere delle buone gambe, e probabilmente Rinaldo si è un po' smarrito, ha perso qualche guida importante che aveva tra i dilettanti, si è trovato a dover emanciparsi da solo, invece ha avuto una maturazione lenta e forse si è anche un po' accontentato, perché alla fine è diventato un buon corridore, un buon uomo squadra, si dice, che può essere di aiuto ai capitani di giornate e all'occorrenza anche capace di vincere importanti di corse, come nella sua carriera a Vater gli è capitato. Adesso sta vivendo questa nuova dimensione e ci auguriamo che serva anche per far fare a questo ragazzo di 31 anni un ulteriore salto di qualità. Credo che per lui i grandi giri siano assolutamente proibitivi, ma Rinaldo ha quelle caratteristiche di cacciatore di classiche che lo poteva veramente mettere sullo stesso livello di un Paolo Bettini, come tu hai nominato, quindi un corridore che nelle corse di un giorno sa il fatto suo, anche perché tiene bene in salita e dispone di un ottimo spunto veloce nelle volate. Piero Augusto, rimani con noi ancora qualche minuto, c'è il traffico, nel frattempo anche le vostre telefonate all'800 24 00 24 e le dichiarazioni di Massimo Amoratti che frena, dice la trattativa per Lussio non è definitivo, non c'è nulla di ufficiale. Il Bayern aveva annunciato sul suo sito web che era già stato definito l'accordo per il passaggio del difensore brasiliano all'Inter con un contratto di 3 anni. Moratti poi ha detto: se l'acquisto di Lussio significherebbe l'abbandono da parte della società della trattativa per Deco e Carvalho, beh, mi sembra chiaro che non possiamo prendere 40 giocatori. Bentornati, seconda parte di A Tempo di Sport con le vostre telefonate all'800 24 00 24, diversi sms 349 238 6666, continuano a chiederci in particolare notizie relative alla cessione del Bologna. Evidentemente se non abbiamo dato risposte nei giorni scorsi è perché non ci sono grandi novità e quindi, non essendo qui sulla notizia come altri, si cerca di andare più sull'approfondimento su quello che succede ed è già piuttosto chiaro. Già ci sono molte cose nel calcio mercato e non solo che si basano sui si dice forse, ma potrebbe essere anche quello della cessione del Bologna, è un tema di questo genere. Questa è una risposta a chi ci chiede da qualche giorno notizie in questo senso. Chiudiamo con Piero Augusto Stagi il Tour de France per questa giornata, per capire, Piero Augusto, dove, quando, come può movimentarsi questo Tour al di là della tappa odierna. Quali sono i momenti cruciali e quali sono in questo momento gli uomini che possono movimentarla in un senso o nell'altro? Beh, possono movimentarla tutti, perché al momento sono in tanti che ambiscono a vincere questo Tour de France e soprattutto sono tutti lì raccolti in un fazzoletto di secondi. Domani c'è subito una prima prova, la Vittel Colmar, ci sarà l'attraversamento dei Vosges, quindi arrivano le prime montagne, ce ne sono 5 che possono essere considerate a tutti gli effetti montagne. Non so se Rinaldo Nocentini sarà in grado, avrà la possibilità, avrà le gambe, la testa e la voglia di difendere per il settimo giorno la maglia gialla. Diciamo che domani trema a tutti gli effetti, dopodiché la tappa, se supererà la tappa di domani, Nocentini avrà la possibilità di portarla perlomeno a Verbier, e domenica invece la tappa è diversa perché c'è proprio un arrivo in salita e un arrivo piuttosto difficile perché è su un colle di prima categoria. Quindi io direi domani, per vedere un pochino se c'è qualcuno che ha voglia di scatenare la bagarre, e questi sono chiamati due su tutti, possiamo dire, l'australiano Cadel Evans e Dennis Menchion, che sono quelli più staccati insieme a Carlos Sastre, se vogliono raddrizzare una situazione, quindi cercare in qualche maniera di ritornare nei giochi e mettere in difficoltà la coppia Armstrong-Contador, e poi domenica che invece lì la strada è assolutamente all'insù e anche l'arrivo è posto in salita. Benissimo, appuntamento dunque in queste giornate con Piero Augusto Stagi, aggiornamenti come sempre anche nei nostri GR e nei nostri notiziari. Buon lavoro Piero Augusto, a presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Queste dunque erano le considerazioni di Piero Augusto Stagi al Tour de France. Ora ci spostiamo su un altro tema, cui arriviamo leggendo un breve stralcio da parte dell'autore, che poi è collegato con noi, con una premessa che in realtà era nella parte finale del suo articolo su Guerin Sportivo di un paio di settimane fa, ovvero: non ci sottraiamo alle critiche inevitabili, anche noi ci siamo occupati, ci occupiamo di mercato, partecipiamo più o meno seriamente al gioco dell'estate, questo è vero. Però Scrive Matteo Marani su Guerin Sportivo, di cui è direttore appunto: la verità spiacevole, come la crisi generale, è che il mercato, amici, è morto. Nessuno seduce più nessuno, a meno che non si chiami Cristiano Ronaldo o Kakà, ma sono due nel mondo, mentre per le altre migliaia di giocatori l'unico obiettivo dei club è liberarsene. I primi ad alimentare il fenomeno sono stati i giornali, oggi il baraccone forse resta in piedi per la stampa, perché gli stessi giornali sono surclassati da speciali sulle TV digitali, lunghe dirette in radio, nuovi siti internet. Cerchiamo di affrontare questo tema proprio con Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo, che saluto. Buon pomeriggio. Ciao, buongiorno, bentrovati. Matteo, è cambiato molto il mondo naturalmente in questi anni, ma è cambiato moltissimo il mercato rispetto alla percezione che ne abbiamo noi operatori e che ne ha probabilmente anche la gente, perché come tu osservi è diverso anche il modo in cui la piazza si scalda per nomi non di alto livello. Di chi è la colpa principale, se si può parlare di colpa, oppure molto più semplicemente chi è stato il primo a dare il via a questo cambiamento? Il movimento oppure noi operatori del settore, che abbiamo dato al mercato un'importanza superiore per tempi, per modalità rispetto a quella che aveva prima? Ma secondo me ci si è un po' inseguiti, un po' rincorsi, un po' noi l'abbiamo cercato, un pochino gli operatori ci sono entrati dentro e hanno, come dire, ingigantito e gonfiato questo fenomeno, per cui sappiamo quanto i procuratori hanno agito e giocato per riuscire a far magari circolare il nome dei loro assistiti e quanto noi ci siamo anche prestati a questo tipo di gioco. La mia riflessione nasceva da questo: anni fa, quando io guardavo al calciomercato, allora da semplice tifoso, uno spettatore non da addetto ai lavori, lo vivevo e mi sembrava una liturgia il calciomercato, cioè i colpi erano colpi veri. E oggi mi sembra che mandiamo in scena qualcosa che quasi non esiste più, anche perché in grande parte parliamo di compartecipazioni, prestiti onerosi, cioè con formule in cui in realtà non c'è più neanche lo scambio del vil denaro. Sì. E raccontiamo questi fatti come se fossero fatti epocali, cioè Grandoni passa al Parma, non me ne voglia Grandoni che è anche un buon difensore, però Grandoni passa al Parma e diventa una notizia da rilanciare in televisione, di cui parlarne sui siti. Voglio dire, evidentemente c'è una richiesta molto grossa da parte dei mezzi di informazione di avere notizie di mercato e diciamo, la famosa All News 24, e poi in realtà non ci sono sufficienti notizie per andare a coprire quel tipo di richiesta e si crea un circuito mediatico, io direi, abbastanza grottesco. Siamo secondi rispetto ad altri paesi, nel senso abbiamo fondamentalmente seguito una linea che era già stata impostata prima di noi da Spagna e Inghilterra in particolare, oppure anche qui ci siamo mossi più o meno contemporaneamente a quanto fanno i nostri colleghi spagnoli, inglesi in particolare, secondo te? Ma direi che quelli un pochino più beccati siamo noi gli spagnoli su questa roba qui, nel senso che anche gli spagnoli ci danno dentro parecchio i giornali stessi, le televisioni, le radio di Madrid, che tutto il tempo rilanciano notizie e informazioni sul calcio. Noi non abbiamo fatto assolutamente eccezione, ripeto, vedo in questo momento un gigantismo dal punto di vista di informazione sul tema del mercato, per cui tutte le televisioni, dalla prima all'ultima, ormai hanno una rubrica dedicata al calciomercato. In radio si parla di calciomercato, sui siti internet tutti, qualunque tipo di sito lascia grande spazio al calciomercato, e poi in realtà non lo vedo. Tra l'altro c'è questo effetto abbastanza surreale del rimbalzo da un paese all'altro, per cui noi riportiamo quello che ha detto il Marco, quello che ha detto il Sun, che a loro volta riportano quello che magari ha detto il Corriere dello Sport o la Gazzetta dello Sport. Esatto. Poi non so quanto ci sia di vero in questo rimbalzo da una parte all'altra, spesso non c'è nulla. Se noi pensiamo alle pagine spese e alle trasmissioni speciali su Ibrahimovic al Barcellona, poi abbiamo dovuto, come dire, accantonare tutto e tutta carta straccia. In questo senso c'è anche una rivisitazione della credibilità e dell'affidabilità delle fonti, nel senso che tutti sono credibili, nessuno è credibile a questo punto, non chiaramente per colpevolizzare chi si occupa di questo, perché stiamo parlando sempre di colleghi, lo facciamo con grande rispetto, ma è un'analisi molto, molto generale e generica. Però se ogni tipo di indicazione che arriva da ogni genere più o meno alto come livello culturale o sociale di mezzo di comunicazione, anche estero, viene considerato credibile, a quel punto è anche difficile muoversi rispetto alla verità. È un'osservazione che puoi integrare? Ma è un'osservazione che condivido. Il problema è che il contatto, le fonti dirette sono sempre meno e sempre più difficili da raggiungere. Tra l'altro c'è questo effetto moltiplicatore della televisione che chiaramente diventa un ostacolo, se vogliamo, al contatto diretto. E quindi ci si affida a contatti di rimbalzo. Tra l'altro devo dire, condivido il ragionamento anche sul lavoro che fanno i colleghi che si occupano del mercato. Secondo me sono ammirevoli, sì. Perché le difficoltà sono tante, i rischi di formazioni, come dire, dirette o manipolate sono moltissime, e quindi si devono muovere in mezzo a questa situazione, dato molto difficile in un mercato globale, per cui ti può venire fuori il nome di un giocatore uruguaiano che non conosci, devi correre a informarti per cercare di capire. Le difficoltà sono molte, e ripeto, le fonti originarie sono sempre meno. C'è questo problema qui, per cui alla fine si lavora molto sul detto, sul sentito e sul rimbalzato, per cui basta una piccola voce che nasce, che so, a Londra per diventare una valanga a Milano. Sì, sì, infatti, no, sorrido perché qui gli spagnoli sono stati sicuramente precursori rispetto a noi con le famose cose che erano state riprese da un amico dell'amico dell'agente del giocatore che riportava. Sorrido perché ieri uno dei primi messaggi di questa trasmissione era arrivato con una persona che diceva: sono un taxista di Milano, mi hanno detto, un dirigente mi ha detto qui sicuro Hernanes al Milan ufficiale, e quindi è una cosa, cosa abbastanza anche questa curiosa e grottesca, che hanno sempre trovato casa nelle nuove città, cioè ci sono sempre giocatori che si muovono per l'Europa cercando caso a Milano, Madrid o Barcellona. Poi in realtà non è vero nulla, perché chi segue un po' il calcio sa che il calciatore non sceglie mai la casa prima di arrivare in una città, arriva in una città e poi viene accompagnato dai dirigenti della società a cercarsi l'appartamento. Però questa è una di quelle altre cose. Oppure quante volte si è visto Van Basten o Rijkaard nella sede del Milan? Migliaia ormai. Esatto. Poi in realtà non ci sono mai andati e si è scelto Leonardo. Però ecco, questo diventa un po' le leggende metropolitane che vanno a alimentare quello che giustamente, insomma, io nel mio pezzo ho voluto ricordare, è un fenomeno mass-mediologico, sì. Ecco, una cosa, come dire, che potrebbe essere più utile a Eco che non a noi che facciamo cronaca sportiva, però alla fine si è creato questo circuito strano, gonfiato, che a me ha colpito, ecco. Terza parte di A Tempo di Sport, ci sono un po' di ascoltatori, l'800 24 00 24, ci sono anche dei messaggi al 349 238 6666, ne parleremo tra poco. Uno lo sottopongo tra un istante a Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo, che è con noi in attesa di avere conferme, visto che parlavamo proprio di si dice, potrebbe essere, pare che l'Inter abbia un accordo vicino con il Barcellona per avere in prestito con diritto di riscatto Alexander Leb, che al Barça ha giocato pochissimo, 8 gare da titolare in campionato senza reti, all'Arsenal giocava di più ma non ha mai segnato molto, è un giocatore che ha delle buone caratteristiche, un buon passo, non è Snyder come caratteristiche assolute, però potrebbe aiutare Mourinho a trovare un po' di varianti offensive, quelle che lui chiede. Però proprio per non essere totalmente incoerenti, Matteo, visto che abbiamo appena parlato di meccanismi di questo tipo di mercato, rimaniamo su quello che c'è stato e c'è fino ad ora, e in particolare a una domanda da parte di un nostro ascoltatore che da Riccione, Luca, ci chiede se il Milan è così in difficoltà rispetto all'anno scorso, se questo scetticismo non è eccessivo. Lui dice: alla fine con Pato al posto di Kakà possiamo fare bene. Qual è la tua valutazione in questo senso? Ma secondo me un giudizio concreto e reale sul Milan bisognerà aspettare a darlo alla fine della campagna acquisti, perché insomma credo che qualcosa da Viaturati faranno, per cui rischia di essere un po' prematuro il giudizio sulla squadra. A oggi mi sembra un Milan indebolito, questo però vi ha ragione, insomma, perde il giocatore più importante, perde l'allenatore che aveva segnato di fatto gli ultimi 9 anni, quindi un ciclo molto lungo, ci sono delle incognite, forse c'è un pochino meno pressione dal punto di vista delle attese, proprio per quello che ha accompagnato quest'estate. Credo che nessuno possa seriamente chiedere a Leonardo qualcosa in più che non un campionato la zona Champions. Ci sono molti punti interrogativi, credo che qualcosa si possa sciogliere da qui alla fine del mercato, appunto, perché se entrano un paio di operazioni allora potremo fare altri discorsi legati al Milan. Poi sarà importante vedere alcuni recuperi, come sarà Gattuso, penso a Nesta, che potrebbe essere un inserimento molto importante. Eh sì. Sì, sarebbe un grande acquisto, forse il più importante in assoluto per il Milan, come potrebbe esserlo Trezeguet per la Juventus, nel senso che è stato a lungo considerato cedibile, ora sembra che abbia ritrovato d'improvviso tutta la fiducia che gli serviva. Probabilmente era necessaria anche un po' di comprensione l'anno scorso per un calciatore che era andato dopo poco dall'inizio della stagione sotto i ferri pensando di operarsi a un ginocchio, poi è uscito dalla sala operatoria e gli hanno detto abbiamo operato entrambi, per cui è un giocatore che andava recuperato in tutti i sensi e che ora potrebbe essere un acquisto pari come valore a quello di Nesta per il Milan. Secondo te qual è la tua considerazione? Potrebbe essere un acquisto importante, un riacquisto importante. Tra l'altro so che si sta preparando bene, sta facendo bene la preparazione, problemi dell'anno passato appunto sono alle spalle, probabilmente anche delle motivazioni, considerando che si è sentito un po' scaricato, evidentemente ha voglia di dimostrare che in realtà può essere ancora utile. Mi sembra che nel modulo di Ferrara ci stia bene, considerando che se giocherà a rombo con le due punte è chiaro che le possibilità di spazio sono maggiori. È un giocatore che potrebbe, aggiungo, integrarsi molto bene anche con Diego, dal quale piace muoversi, però proprio le capacità di finalizzazione di Trezeguet rimangono abbastanza uniche nella Juve. Mauri è un altro tipo di giocatore, Iaquinta è anche lui un giocatore molto di movimento, però vero finalizzatore d'area di rigore mi sembra che rimanga solo Trezeguet. Senti, tu hai riconosciutamente insomma una idea super partes rispetto a Mourinho, nel senso che molti, come in tutti gli ambiti della vita, a volte tendono a fare valutazioni anche sul piano umano, no? Nel senso, c'è più chi più o meno è simpatico, appetibile, e di conseguenza ogni giudizio anche tecnico deriva da questo. Voi avete proposto copertine di vario genere, da I love Mu dopo la vittoria sulla Juventus, quindi positiva nei suoi confronti, ad altre considerazioni invece di attese e di aspettative superiori per la prossima stagione. In tutto questo quadro, come consideri le sue dichiarazioni di inizio stagione? Un giocatore del suo gruppo si può sentire punto nell'orgoglio dalle sue considerazioni, ovvero non siamo ancora al top, oppure può essere demotivato o sminuito nella sua autostima? Ma io credo che sia stata una grande operazione mediatica, l'ennesima, cioè per non avere addosso il carico del pronostico, il peso di essere lui il favorito e quindi avere come grandi richieste, grandi attese. Anticipato per non essere criticato e attaccato, e credo che da questo punto di vista sia imbattibile. Insomma, il comunicatore Mourinho rimane assolutamente il migliore sulla piazza europea, direi. Nessuno come lui è bravo, ha capacità nel manipolare le opinioni e le persone, soprattutto la stampa, che poi deve comunicare con l'opinione pubblica. Altro discorso su quello tecnico: noi abbiamo sempre un po' separato le due cose. Credo che lì invece Mourinho debba e dovrà fare uno scatto in questa stagione, cercando quasi l'obbligo di far giocare meglio l'Inter, perché se non passa da lì la crescita dell'Inter, difficilmente potrà fare cose importanti in Europa. Cioè, negli ultimi anni, guardando la storia della Champions, e tu Massimo ne sei testimone, tutte le squadre che hanno vinto o che comunque sono arrivate molto avanti sono squadre che basano sulla qualità del gioco. È verissimo. Non ricordo squadre fisiche che sono arrivate in fondo. Quindi io credo che lui la grande crescita debba fare da quel punto di vista. Io ho apprezzato sin dall'inizio il comunicatore Mourinho. Su quello tattico tecnico qualche riserva l'ho avuta, e in quest'ultima stagione semmai mi è un po' cresciuta, cioè non ho sciolto i dubbi. Per esempio mi è sembrato che ci sia stata una deleteria dipendenza da Ibrahimovic. Cioè, Ibrahimovic era un giocatore importante anche con Mancini, ma adesso è diventato determinante, insostituibile, devo dire. E questo credo che sia stato un errore, perché non puoi dipendere da un unico giocatore, e su questo secondo me Mourinho dovrà lavorare. Grazie Matteo, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Matteo Marani, direttore del Corriere Sportivo. Integro le sue ultime considerazioni e le supporto ulteriormente con una considerazione che ho sentito qualche giorno fa in un'intervista in uno speciale, in un'intervista piuttosto prolungata e profonda di Gianluigi Buffon su Sky Sport, lui diceva: quando Capello era allenatore della Juventus non siamo mai arrivati veramente avanti in Champions, siamo usciti rapidamente con Arsenal e Liverpool perché ci basavamo moltissimo appunto proprio sulla potenza fisica della nostra squadra, di alcuni nostri uomini, di alcuni nostri tra i migliori giocatori, e di conseguenza poi per vincere in Champions e andare avanti serve una struttura di squadra più completa, più tecnica e con un gioco che ti supporti in maniera più completa. Maurizio da Modena, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a lei. Massimo. Grazie per l'attesa, so che rida un po'. Immagino, io apprezzo molto il suo equilibrio anche quando lo vedevo per televisione. Grazie. Chiedevo una cortesia. Sì. Adriano al Milan. Sì. Perché secondo me va a finire così proprio, cioè è da tempo che io vedo questa possibilità. Le chiedo un suo parere, anche perché conoscendo bene il Milan da tanti anni, credo che proprio le sfide, questo tipo di sfide siano sempre state alla base della politica del Milan. Quindi le chiedevo un suo parere, grazie. Grazie a lei. Beh, sicuramente sì, non tutte le sfide poi sono state portate a termine in maniera positiva, da Redondo a Rivaldo, a Vieri, a Ronaldo, allo stesso Ronaldinho. È una sfida questa di Adriano che sarebbe ancora più clamorosa da affrontare e probabilmente ancora più difficile da vincere rispetto ad altre. Certo, potrebbe mettere un po' di pressione sull'ambiente dell'Inter se Adriano riuscisse a fare bene all'inizio, però io ricordo ad esempio un collega che l'anno scorso, non avendo avuto la possibilità di seguire la presentazione di Ronaldinho, chiesi: allora com'è stata, ho visto qualcosa di sfuggita, grande spettacolo, grande entusiasmo. Lui disse: sì, però non ho visto gli occhi brillanti e lucidi del campione che ancora la fame e la voglia di bruciare l'erba come dovrebbe essere. E probabilmente quando questo succede poi è difficile riacquistare quella voglia e quella completezza di motivazioni che hanno permesso di arrivare al massimo livello. Adriano, 2004, Coppa America con il Brasile, 2005 eccetera, era un giocatore formidabile, però non ha dato seguito per vari motivi e queste potenzialità. Ora recuperarlo dopo che è andato in Brasile, che ha detto che là sta bene con il figlio eccetera eccetera, sarebbe una sfida veramente molto molto dura da vincere. Fabrizio dalla provincia di Ancona. Sì, ciao. Salve. Senti, io sì, innanzitutto sono un appassionatissimo di calcio sudamericano, in particolare di calcio argentino, e ho in mente le sue telecronache a Sport Italia e le ricordo sempre con un grande piacere. Grazie. Sì, questa notte non mi sono svegliato perché poi dicono che le occhiaie in radio non si vedono, quindi si potrebbe fare, non ce l'ho fatta, ma ho registrato la partita e l'ho vista stamattina prestissimo, la finale. Prego. Per il resto, vabbè, gli argentini originali sono altrettanto impetuosi, sono fuori di testa come commenti. La mia domanda è questa: io sono un tifoso juventino. Sì. Volevo chiederle se c'è un motivo particolare per cui la Juventus, ma anche altre squadre italiane, soprattutto italiane, non investono nei giovani talenti sudamericani. Giovani io intendo ragazzi di 18-20 anni da far venire in Europa, magari da non sottoporre a una pressione esagerata e eventualmente poi da sfruttare per 7-8-9 anni di carriera, un po' come è capitato Kakà, che è stato acquistato giovanissimo, e invece noi abbiamo aspettato 4 anni per prendere, anzi 5 anni per prendere Diego, che Diego, sì, io me lo ricordo quando giocava con Robinho, era già quello, sì, che era 5-6 anni fa. È verissimo. Adesso l'abbiamo pagato non poco. Sì, sì. No, ti ringrazio, possiamo darci del tu, anche se ci siamo conosciuti così al volo e sentivo insomma che poi mi hai dato del lei nella parte finale, ma insomma a parte questo che non ha importanza, dicevo grazie e condivido pienamente le considerazioni. Perché? Perché in Spagna e in altre realtà si rischia un po' di più, probabilmente ci sono anche delle attitudini a lavorare con certi mercati che sono molto complicati, come quello argentino-brasiliano, fondi di investimento, tante società che detengono il cartellino di un singolo giocatore in varie parti, in varie porzioni, e perché evidentemente non abbiamo le qualità degli osservatori che hanno gli altri. È vero che gli osservatori costano, ne abbiamo parlato con Mino Favini, che è responsabile del settore giovanile dell'Atalanta da anni, e abbiamo affrontato anche questo tema, però non è solo una questione di costi, è questione anche di competenza, perché poi è molto difficile vedere i giocatori a un'età giovane e capire quali sono le loro potenzialità e prospettive di crescita. Si può sbagliare in maniera clamorosa. Io ad esempio avevo scommesso in maniera chiarissima e certissima su Carrizo come portiere di qualità a livello mondiale. Alla Lazio ha affrontato una stagione infernale. È molto difficile, da noi si rischia pochissimo e ormai è anche tardi, nel senso che i giocatori anche giovani in Sud America rispetto a qualche anno fa costano molto. Il Benfica ha pagato Ramirez del Cruzeiro oltre 7 milioni di euro. Ancora una decina di minuti insieme, parleremo anche di nuoto, parleremo anche di Formula 1, in realtà nel weekend soprattutto di motori con il moto mondiale, questo perché ci sono diversi vostri sms sul passaggio da Max Mosley a Jean Todt, capo della FIA, e varie considerazioni le faremo nel corso del weekend. Quanto al tour, l'UCI ha deciso ok agli auricolari, abolito il divieto di utilizzo degli auricolari nella 13ª tappa del tour in programma domani da Vittel a Colmar per un totale di 200 km per non compromettere la regolare disputa della corsa. Era un tema che aveva ravvivato queste giornate molto molto blande sul piano emozionale del tour. Due ascoltatori, se sarete rapidi poi avremo spazio anche per parlare con un attimo di calma di Mondiale di Nuoto. Paolo da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Volevo fare una osservazione e vedere se lei è d'accordo con me. Sì. Io ho 49 anni, seguo il calcio televisivo e anche non ormai da 40 anni. Il direttore del Corriere Sportivo prima diceva che l'Inter ha un gioco troppo fisico e Mourinho non è riuscito a dare un gioco a questa squadra, un gioco tra virgolette, un bel gioco, ecco, diciamo così, no? Sì. Ma io oggettivamente, da quando l'uso della ragione, spero di poter dire da quando ho 10 anni insomma, no? Che vedo giocare l'Inter, io non ho mai visto, forse una parentesi breve quando c'era da allenare tale Orrico che ha voluto fare un modulo un po' copiandolo da Sacchi, ma io non ho mai visto l'Inter giocare, cioè vincere, per carità, con i grandi campioni quando aveva Ronaldo, mi ricordo Rummenigge, ma giocare con un gioco che piaceva, se per piacere di gioco si intende un gioco rifacendoci l'Olanda di Cruyff, al Brasile, sì, piuttosto, cioè ha sempre fatto un gioco molto speculare, un po' da viva al parroco. Allora, la domanda è questa, ma secondo lei questo fatto che l'Inter giochi in maniera italianista e difensiva, ci siamo intesi, no? Con palla avanti, col grande campionissimo davanti. Sì, senza una manovra lineare, insomma. Ecco, senza un gioco collettivo. Sì. È una questione proprio di perché i presidenti dell'Inter scelgono appositamente allenatori e preparatori atletici che puntano solo sulla forza fisica, e quindi c'è un'ideologia dietro questo lì dell'Inter, oppure è solo casuale? Perché io le giuro, da quando l'uso della ragione, una bella partita dell'Inter, se bella si intende il gioco corale, il gioco di passaggi, il gioco, diciamo, il gioco tecnico, io di tecnica all'Inter ne ho sempre vista ben poca. Sì, no, la ringrazio, è un discorso molto molto ampio. Sicuramente la pressione non aiuta, e quindi per essere mediamente sereni in campo e avere la possibilità di sviluppare un gioco lineare, quindi con una certa libertà anche di variare le situazioni in campo, bisogna essere appunto sereni, e questo non lo è stato perché l'Inter per tantissimi anni non ha vinto, e quindi ogni anno c'era all'inizio dell'estate la sensazione che potesse essere l'anno giusto, poi le cose andavano male all'inizio e tutto si complicava, non c'è stato o c'è stato raramente un progetto tecnico. La migliore Inter degli ultimi anni che io ricordi a memoria è stata sul piano del gioco quella di Mancini dei primi anni, con Juan Sebastián Verón, con Stankovic, con Pizarro, tutti insieme. È una squadra che ha giocato un calcio di buona qualità, che però concedeva molto proprio per questo, perché non aveva un grande equilibrio. Non è evidentemente una scelta che si fa a monte, si vorrebbe vincere giocando un calcio di un certo tipo, anche perché si sa che è più facile arrivare a vincere attraverso il gioco che attraverso altre strade meno prevedibili e meno decodificabili. Quanto a Mourinho, è probabilmente da distinguere un aspetto tattico puro legato proprio allo stile di manovra che le sue squadre raramente hanno avuto, ha una gestione delle situazioni tattiche nelle singole partite nel corso dell'anno che lui ha dimostrato di possedere. Sinteticamente, alcune partite sono state giocate e spesso vinte grazie a un'impostazione di situazioni, quella fisica totale con Adrian Ibrahimovic all'assalto di Chiellini, le grottaglie contro la Juve all'andata, Stankovic a inserirsi sistematicamente alle spalle di Pirlo nel derby di ritorno segnando un gol e sbagliandone un altro paio clamorosi, i gol segnati molto simili da Ibrahimovic a Roma contro la Roma in apertura di partite con una volata in contro fuorigioco, lo stesso contro il Genoa nel match di ritorno. Quindi uno studio degli avversari, delle caratteristiche dei suoi giocatori in base a quelle delle squadre avversarie e la capacità poi di giocare in questo modo. Certo, è una squadra che deve spesso recuperare palla più avanti perché non ha un costruttore di gioco puro, anche se Cambiasso è un grande equilibrista, un grande equilibratore a centrocampo, e perché la manovra spesso si basa poi su situazioni di grande volontà e imprevedibilità fisica come quelle di Maicon e di Ibrahimovic. Alessandro D'Ancona, poi passiamo al nuoto, prego. Buongiorno, io non ho una domanda vera e propria, ma quanto una riflessione proprio sul signor Mourinho, sì, e anche sull'atteggiamento a volte accondiscendente che secondo me intrattiene con lui la stampa tutta. Sì. Una volta le esternazioni, mi riferisco ad esempio alle esternazioni del signor Mourinho rispetto appunto alla non essere all'altezza delle migliori squadre europee. Sì. Qualche tempo fa, piuttosto che un genio dell'informazione, si sarebbe detto che sta mettendo le mani avanti, nel senso che nessuno può negare che l'Inter abbia a disposizione uno dei migliori organici di Europa. Sì, io non per autocitarmi, ma domenica con Carlo Genta l'ho detto, nel senso che lui ha detto, come spesso succede, la verità, e come spesso accade anche cose per tutelare la sua posizione. Ad esternazioni un po' prudenti di Ranieri dell'anno scorso, Ranieri fu messo in croce dalla stampa perché poco ambizioso, perché troppo prudente, perché è vero, è vero. E quindi non consono a una società di grande livello come era la Juve, che pure usciva da una situazione di crisi, da una Serie B, da una fase di ricostruzione che era evidente agli occhi di tutti. Quindi io direi di fare un attimo attenzione anche a questo signore che continua a spararle di tutti i colori, un po' figlio di questa società, di questi nostri tempi un po' cialtroni, secondo me, dove basta avere la giusta cassa di risonanza si può dire qualsiasi corbelleria al mondo. Poi è evidente che dobbiamo chiudere poi perché abbiamo il nuoto, velocissimo. Sì, velocissimo. È evidente che poi quando si partecipa a una competizione come la Champions League è ovvio che si parte per arrivare in fondo, poi non si sa come si arriva perché anche gli altri non stanno certo a guardare, però non si può nascondere che l'Inter oggi parta come una tra le favorite in Europa, e se non dovesse andare avanti sarebbe comunque un fallimento, secondo me. Benissimo, grazie, parleremo ancora di questo naturalmente nelle prossime puntate. Ora qualche minuto dedicato al nuoto con Dario Ricci. Bentornato Dario, i mondiali sono alle porte. Eh sì, conta la rovescia, ormai prossimo alla scadenza. Ciao Massimo, un saluto a tutti. Hai letto, sentito, visto cosa ha detto Magnini, che quella di Phelps, il suo torcicollo è una scusa, sa che non vincerebbe i 100. Eh sì, insomma, è bello vedere questi re dello sprint, dei 100 stile libero, la gara più attesa, che cominciano a punzecchiarsi. Magnini, campione in carica per due volte consecutive, a pari merito con il canadese Hayden a Melbourne 2007 e da solo chiaramente a Montreal 2005, cerca il tris che sarebbe storico, leggendario, e chiaramente l'assenza di Phelps dalla gara più prestigiosa per questo torcicollo che, lo ricordiamo, gli ha impedito di partecipare alle selezioni sui 100 stile libero ai trials americani di Indianapolis, non può che far piacere all'azzurro, che, visto anche che è un'assenza, Massimo, che si somma a quella di Eamon Sullivan, l'altro campione australiano che non prenderà parte a Roma 2009 a causa di un virus piuttosto misterioso, detentore del record del mondo dei 100 stile libero. Insomma, Magnini, che è rimasto fuori dalla finale di Pechino 2008 per pochi centesimi, si fa sempre più largo tra queste corsie dei 100 infuocate. Sentiamo ora Ilaria Scarcella, che tu hai raggiunto dopo le sue grandi prestazioni a livello juniores, 100-200 rana, è una delle tante giovanissime, dei tanti giovanissimi che si affacciano al Mondiale di Roma. Sicuramente la vincita dei 50 rana, che assolutamente non mi aspettavo. L'obiettivo era vincere i 100-200, però i 50 proprio no. Quest'anno assolutamente è andata benissimo, ho raggiunto tutti gli obiettivi fino ad ora. Ho 16 anni comunque, il mio primo mondiale, come va. Comunque già il nuoto è comunque il mio hobby, cioè quello che faccio nel tempo libero comunque mi piace e lo faccio con voglia comunque, con passione. La finale nei 200 rana sarebbe proprio il massimo. Dario, in pochi secondi, in meno di un minuto, altri nomi di giovani che sono pronti per questi mondiali con grande entusiasmo, eh? Eh sì, direi di sì, mentre guardiamo i Phelps, Federica Pellegrini e gli altri campioni, c'è già una generazione di giovanissimi che ci troveremo al primo grande appuntamento proprio a Roma. Qualche nome: Elizabeth Pelton, 15 anni, 4 gare a cui prenderà parte a Roma 2009, statunitense, non farà però i 200 misti, 16 anni per Elizabeth Basel, e poi, proprio avversaria della Scarcella, 15 anni la canadese Reason, che pochi giorni fa ha stabilito, pensare, il nuovo record del mondo dei 50 rana, e poi il 16enne Tom Daley nei tuffi, per lui un veterano direi, visto che già ha fatto Pechino 2008, ma chiaramente è una battuta e l'obiettivo è Londra 2012. Grazie Dario, a domani con i mondiali di nuoto con Dario Ricci, con Flavio Suardi in redazione, grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a voi per averci seguito, a risentirci su Radio 24 da Massimo Callegari.